cominciate ad osservare l'appoggio di tutte le parti del corpo sul pavimento, partendo dai piedi e arrivando fino alla testa. Osservate come è messo un piede, l'altro, come sono orientati i piedi. Vi accorgerete che c'è un piede che ha le dita e che è più ruotato in fuori e che un piede è più allineato. Se ci pensate, vi renderete conto che il piede che sta dritto, in genere, non sempre, ma generalmente, è quello sul quale si porta il peso e la gamba portante. Il piede che è più ruotato in fuori è quello della gamba più libera, della gamba più flessibile di stacco. Evitate di rendere simmetrici gli appoggi, ma solo prendete atto di come state appoggiate a terra e delle differenze tra un lato e l'altro. Dopodiché osservate come appoggiate il tallone, il polpaccio, quanto dista il ginocchio destro e la coscia destra e sinistra, scusate, la terra. Come appoggia il bacino? A destra, a sinistra? Sentirete che c'è una parte che è più sollevata, quindi una parte che è più avanti verso il soffitto. Se non sapete qual è, provate ad ondulare il bacino destra e sinistra in modo da vedere da quale parte si muove con più facilità e da quale parte con meno. Molto lentamente. Basta un movimento anche di 2 mm. E evitate di farvi violenza, di costringervi a fare il movimento che io vi chiedo, ma partite con l'ascoltare come siete voi e quello che fate voi. Feldenkrais diceva sempre che quando sai quello che fai, puoi fare quello che vuoi. Quindi, se per esempio vi dico di sollevare l'anca destra, osservate se per caso il primo movimento che viene a voi è invece di premerla un pochino a terra. Quindi provate ad ondulare il bacino sollevando l'anca destra e poi la sinistra. Ed osservate se effettivamente quando vi dico di sollevare l'anca destra la sollevate o prima la premete a terra. Qual è la prima reazione? La vostra prima abitudine, il vostro schema funzionale. Ok, poi continuiamo. Ed osservate come appoggiate a terra con tutta la colonna vertebrale, partendo dal coccige e arrivando fino alla testa. Osservate se appoggiate solo col coccige e la zona tra le scapole e poi tutto il resto è un meraviglioso arco, o se c'è qualche altra parte che cade e si appoggia un pochino a terra. Con come e quali vertebre appoggiano. E poi osservate come è messo il collo, come tenete la bocca, se tenete i denti stretti, vi irrigidite il collo e fino a metà schiena, e se non lo sentite provate a farlo volutamente, di stringere i denti, contrarre i muscoli della mandibola, stringere i denti e sentire cosa succede nel collo e nella schiena. E poi lasciate andare ed osservate come sono le due spalle. Quale è più avanti verso il soffitto e quale è più indietro verso il pavimento. E come appoggiano le due braccia? Con i gomiti, i polsi, le mani, le dita. Appoggiate il palmo, il dorso di traverso e le mani appoggiano nello stesso modo, diversamente. Bene, tutta questa lezione va fatta con le gambe allungate ed è come se fosse sugli schemi funzionali del camminare. Ora, siccome a molte persone fa male la schiena stare molto tempo con le gambe allungate, soprattutto se hanno la parte lombare contratta, rigida, se voi sentite la necessità di piegare le gambe in qualsiasi momento della lezione, piegate le gambe, staccate i piedi da terra, tirate le ginocchia verso di voi e rullate a destra e a sinistra o in su e in giù. Bene, cominciate col sollevare la spalla sinistra e ritorna. Col minor sforzo possibile e lasciando il gomito sinistro appoggiato a terra. Quindi è solo la spalla, la parte prossimale del corpo che si muove. Ora, visto che noi siamo abituati a muovere molto le mani e le braccia, sentirete che sollevare con un movimento molto piccolo e molto lento la spalla sinistra non è semplice e si muove come a salti, come a scatto. Solo la spalla sinistra. Spalla sinistra. Anche se si muove a scatti, a salti, non vi preoccupate, continuate cercando di fare il movimento sempre più lentamente e sempre più piccolo. E man mano vi accorgerete che la spalla impara e lascia andare. E man mano che respirate, tenete la bocca morbida e sollevate verso il soffitto la spalla sinistra, osservate cosa succede, se succede qualcosa, nel resto del corpo. Osservate quando sollevate la spalla sinistra verso il soffitto e la muovete avanti, cosa succede nel torace, quale parte del torace preme di più sul pavimento. se lo tenete bloccato come se aveste un corsetto, un'armatura. Immaginate le costole, lo sterno, le vertebre fatte di gomma. Quindi permettete a questo movimento della spalla sinistra di passare e di far muovere tutto il torace. Lasciate andare, osservate se c'è qualche piccolissima differenza tra la spalla sinistra e la spalla destra e poi lentamente iniziate a fare lo stesso movimento con la spalla destra. Piano piano sollevate verso il soffitto la spalla destra e ritornate molto lentamente, lasciando gomito e braccio destro appoggiati a terra. Solo la spalla si muove. E osservate se da questa parte la spalla destra salta, si muove più a scatto rispetto alla sinistra o no. E come passa il movimento della spalla destra nel resto del corpo. Osservate se tenete la bocca morbida, il collo e la testa liberi o se premete con il collo e la testa sul pavimento. Bene, adesso molto lentamente premete la spalla sinistra per terra e lasciate andare. E poi di nuovo la premete e continuate così. E osservate cosa succede questa volta nel torace. Se prima si sollevava la spalla e premeva un po' la parte destra e bassa del torace, adesso vi accorgerete che il premere la spalla destra sul pavimento vi apre la parte alta sinistra tra le clavicole, le costole e le spalle. E continuate. Osservate se respirate, come tenete la bocca. Poi lasciate andare e fate la stessa cosa con la spalla destra. Quindi piano piano premete la spalla destra sul pavimento e poi tornate. Premete la spalla destra e poi tornate. Non sollevate, ma premete la spalla destra a terra. E osservate se si apre in questo modo, come dicevo prima, la parte alta del torace, tra le clavicole, le costole, la spalla. Ok, ora sollevate la spalla sinistra e poi la premete. La sollevate e la premete. È importante che facciate il movimento seguendo le istruzioni che vi do. Quindi se vi dico di pensare al movimento della spalla sinistra che si muove avanti e indietro, pensate alla spalla sinistra che si muove avanti e indietro. Anche se è ovvio che muovendo una parte si muove anche l'altra, ma l'attenzione volontaria è messa a sinistra. Ok, e adesso fate la stessa cosa con la spalla destra, quindi muovete la spalla destra avanti verso il soffitto e indietro premendola sul pavimento. Ok, adesso sollevate la spalla sinistra e ritorno, la destra e ritorno, sinistra, ritorno, destra e ritorno. Osservando come tenete la bocca, che è morbida. Osservate se continuate a respirare, come tenete il collo, la testa. Ed ora premete una volta la spalla sinistra e una volta la spalla destra. E ricordatevi che in ogni momento, se avete bisogno per la schiena di piegare le gambe, potete farlo. Ok, adesso cominciate a sollevare l'anca destra. La gamba destra, quando fate questi movimenti con l'anca, le gambe sono allungate, quindi la gamba destra è allungata e osservate se riuscite a fare un movimento lento, piccolo, ascoltando come vi muovete, evitando di impuntellarvi sul tallone destro. Piano piano sollevate l'anca destra. Sollevare l'anca destra significa in questo caso muoverla avanti verso il soffitto, non verso la testa, ma verso il soffitto. Se foste in piedi sarebbe ruotare il bacino a destra e a sinistra, avanti e indietro. Quindi piano piano sollevate l'anca destra senza premere il tallone destro, ma pian piano aumentando la pressione a sinistra. Col minor sforzo possibile, aggiustando, adeguando tutto il resto del corpo per facilitare il movimento, coordinandolo. E poi fate la stessa cosa con la parte sinistra del bacino, quindi gambe sempre allungate, sollevate la parte sinistra e l'anca sinistra del la parte sinistra del bacino e l'anca sinistra. Senza impuntellarvi sul ginocchio e col tallone sinistro. E osservando da che parte riesce più facile. Bene, adesso premete la parte sinistra sul pavimento, quindi parte sinistra del bacino premuta a terra e ritorno. Poi premete la destra. Ok, adesso sollevate la spalla destra e premete l'anca sinistra contemporaneamente. Spalla destra avanti al soffitto e anca sinistra premuta sul pavimento. e ritorno. Osservate se respirate. Osservate se ci sono delle parti che irrigidite, anche se non è necessario. E adesso sollevate la spalla sinistra e premete l'anca destra contemporaneamente. La spalla va su e l'anca viene premuta giù. E osservate qual è la differenza, se c'è, tra il lato di prima, tra la diagonale di prima e questa. Sollevate, muovete avanti la spalla sinistra e premete sul pavimento l'anca destra. Ripetete respirando. E facendo ancora una volta attenzione al primo moto, vale a dire alla prima reazione che vi viene quando vorreste fare il movimento, ma magari di fatto non riuscite a farlo come vorreste. Ok, adesso premete la spalla destra e sollevate l'anca sinistra contemporaneamente. Sollevate, muovete avanti l'anca sinistra e premete sul pavimento la spalla destra. Spalla destra giù e anca sinistra su. Che poi è meglio dire spalla destra indietro e anca sinistra avanti, perché se foste in piedi il movimento sarebbe quello. Ok, e adesso muovete l'anca destra avanti verso il soffitto e la spalla sinistra indietro verso il pavimento. Osservate se state respirando. osservate se ci sono delle parti che irrigidite o tenete contratte anche se non serve. Ed ora fate il dondolo tra la spalla destra e l'anca sinistra. Muovete avanti verso il soffitto la spalla destra e premete sul pavimento l'anca sinistra. Muovete l'anca sinistra avanti verso il soffitto e premete sul pavimento la spalla destra. E continuate. Una va su, l'altra va giù e viceversa. Anzi, scusate, una va avanti, l'altra va indietro e viceversa. Spalla destra avanti al soffitto, anca sinistra indietro premuta terra. Anca sinistra avanti verso il soffitto, spalla destra indietro premuta terra. E osservate come passa il movimento in diagonale lungo la schiena, lungo il corpo, come tenete la bocca. Ed ora fate la stessa cosa con la spalla sinistra e l'anca destra. Muovete avanti al soffitto la spalla sinistra e premete al pavimento l'anca destra. Muovete avanti al soffitto verso il soffitto l'anca destra e premete sul pavimento la spalla sinistra. Quindi è un dondolo in diagonale. Spalla sinistra, anca destra. Col minor sforzo possibile, ascoltandosi, percependosi. Ok, ora accorciate la diagonale che va dalla spalla destra all'anca sinistra, quindi sollevate sia la spalla destra e l'anca sinistra e le muovete avanti verso il soffitto. Quindi spalla destra e anca sinistra avanti verso il soffitto. La diagonale spalla destra, anca sinistra si accorcia, è come se fosse un elastico che si accorcia, un muscolo unico che si contrae. E poi tornate. Spalla destra al soffitto e anca sinistra al soffitto. E osservate se muovete di più una parte dell'altra o se riuscite a muoverle alla stessa ampiezza. E se vedete che una si muove molto di più, invece che forzare l'altra, diminuite l'ampiezza della parte che va di più, che diventa solidale e aiuta quella che va di meno. Attenzione, non perdetevi, è sempre la spalla destra e l'anca sinistra che si sollevano verso il soffitto e vanno l'una verso l'altra. Anca sinistra e spalla destra. Ok, adesso la stessa cosa con l'altra diagonale, quindi muovete verso il soffitto la spalla sinistra e l'anca destra. Quindi si accorcia questa diagonale. Spalla sinistra e anca destra avanti verso il soffitto. E osservate se muovere questa diagonale vi risulta, lo sentite, più facile o meno facile, più piacevole o meno piacevole. Bene, adesso premete la spalla destra e l'anca sinistra per terra e poi lasciate andare. Premete spalla destra e anca sinistra e lasciate andare in modo da allungare quella diagonale. Anca sinistra, spalla destra. Come se fosse un elastico che viene stirato. Muscolo che viene stirato, allungato. Anca sinistra e spalla destra premute a terra. Ed ora l'altra diagonale, quindi premete la spalla sinistra e l'anca destra sul pavimento. Quindi stirate, allungate la diagonale premendo anca destra e spalla sinistra. Bene, adesso sollevate, muovete avanti la spalla destra e l'anca sinistra, quindi accorciate la diagonale e poi premete sul pavimento la spalla destra e l'anca sinistra, quindi allungate la diagonale. E di seguito avvicinate la spalla e l'anca, muovendole avanti verso il soffitto, spalla destra, anca sinistra, e poi le allontanate l'una dall'altra premendo anca sinistra e spalla destra a terra. E continuate ad accorciare e a stirare la diagonale che va dalla spalla destra all'anca sinistra. adesso fate la stessa cosa con l'altra diagonale. Quindi sollevate la spalla sinistra e l'anca destra al soffitto, avvicinando la spalla all'anca l'una all'altra, e poi premete la spalla sinistra e l'anca destra sul pavimento, allungando la diagonale. E continuate ad accorciare, sollevando spalla sinistra e anca destra verso il soffitto e a premere sul pavimento. Anca destra e spalla a sinistra. Ok, adesso immaginate di camminare per strada e quindi una volta muovete avanti spalla destra e anca sinistra e una volta la spalla sinistra e l'anca destra, come se steste camminando per strada. Spalla destra e anca sinistra avanti e poi spalla sinistra e anca destra avanti. E poi di nuovo spalla destra e anca sinistra avanti e poi di nuovo spalla sinistra e anca destra avanti. E di seguito, senza irrigidirvi, come se steste camminando per strada. Ma invece, essendo sdraiate, il movimento diventa ancora più facile perché la gravità vi toglie tutte le cattive abitudini. L'assenza, scusate, di gravità. Benissimo, e adesso cominciamo a riosservare gli appoggi come abbiamo fatto all'inizio e osservando se ci sono delle differenze partendo da come sono orientati i piedi fino alla testa, come appoggiano i talloni, i polpacci, quanto distano le ginocchia, le cosce da terra, come appoggia il bacino a destra, a sinistra. Il coccige, l'osso sacro, l'arco lombare, se sono un po' più vicini al pavimento, e poi come sono messe le vertebre toraciche, le costole, le scapole, come è messo il collo, la testa, la bocca, e infine come appoggiano le spalle e le braccia. Coi gomiti, i polsi, le mani. E poi piano piano, quando vi sentite pronte, rotolate su un fianco, vi sedete, vi alzate, osservate come siete, come state in piedi e camminate un po' all'indietro.